Check, check, check, ci sentite? Radio Plaza. Radio Plaza. Check one, check one. Radici di Gramigna. Questo era Can't Hold Me Down dei New Master Sound e la prossima traccia è Get Back. Buon ascolto a tutti. Like a roller coaster ride. Gramigna If I Selection. Lottando, amando, contrattambiando. che sarai, sarà quello che amerai. Se non sai per cosa andare avanti, dove vai, spread love. È quello per cui canti, quello su cui conti, se a qualcuno importi. Tanti volti risvolti, ma è semplice, puoi toccare l'apice al fondo del vortice. Con il mio complice nel gorgo ti ci porto fino a un mondo dove l'odio si è dissolto. Yo, vivere col terrore di non poter amare, perché hai paura che ti possa fare troppo male. Ma quale la soluzione? Qual è il prezzo? Rinuncia a questo per paura di te stesso. Hai perso, vai verso l'inevitabile, sconfitto perché sei più fragile. È facile che tu nasconda cosa hai dentro, ma prova ad amare anche solo un momento. Ciò che sento, che tramanda passione nell'intrattenimento, che trasforma rabbia in sbattimento, che trasmette la forza di rimanere al mondo e vivere del mio talento. Chiamami, ti fornirò gli stimoli per far sì che la serata sia la più speciale come lirici. Lo degede quando l'Airside celebra il microfono, non scorda mai le origini. Performo con i cronici, miei complici di fondo, vortici di pacifismo. È una legge causa-effetto come nel buddismo. Namio, Rengekyo, Berlipo, forse no, con il tuo Jasmine sapsista. Si più realista. Fare del bene viene naturale, come amare invece per odiare devi avere dentro il male. Questo è il messaggio da diffondere nel 9-7. Red Love, dall'area cronica entertainment. Original Mr. Duster alla selezione. Buona domenica a tutti e a tutte da una voce rotta dal compleanno di Terra Radio Plaza. Si sente? Si sente? Radici di Gramigna 4 Live and Direct. Sente, eh? Nel nostro stile abbiamo praticamente inquinato Radio Plaza, capito? Cioè, perché loro hanno aperto la Plaza e giustamente la Plaza poi è aperta, capito che succede? Radici di Corramigna. Yes. Thank you. amici di Gramigna. Tanti auguri a Terra Terra, ai nostri fratelli e le sorelle, per i loro 10 anni di resistenza sonora nelle buie periferie dell'impero delle banane mosche. Gramigna, orribile infestante, incubo di tutti i contadini e gli agricoltori. Il blitz è scattato attorno alle 22 dopo un passaparola anche via internet. Una trentina di attivisti del centro sociale Gramigna, il più radicale di... Tagli la radice in 10 parti, avrai 10 Gramigna. Tu sei un uomo come tutti gli altri. Ami il potere? Sì, magmaticamente. Sei pronto a cederlo? Ma le erbacce non esistono. Esistono le erbe. Che sta a fa qui, l'usora Gramigna? Non lo faccio, sora Migragno. Sapete voi, sora Gripagna? Io sono un politico. Ho bisogno di indicazioni concrete. Un albero dei fichi in un anno cresce nui fichi. Ma un frate che ci cresce, a barba? Ma sa dalla miseria. E sora Gramigna, bisogna vedere quando piove si se bagna. Nella vigna la Gramigna è peggio della vigna. Ma è stata una vicenda vergognosa. Una banda di delinquenti organizzati ha messo a ferro e fuoco la città. Capisco ovviamente ci possono essere valutazioni anche critiche sulla gestione dell'ordine pubblico, io non mi sento di speculare su questo tema. Mi è capitato di vedere questa banda perché tornavamo da Benevento, dal cantiere dell'alta velocità, l'abbiamo trovata di fronte, faceva davvero paura, una banda organizzata di gente venuta per delinquere. Ora il problema è più vasto, perché è un problema che riguarda le alleanze fra diverse tifoserie. Ci sono componenti in queste tifoserie di delinquenti davvero organizzati. C'è bisogno di misure nazionali, di una legislazione nazionale rigorosa. sappiamo fare come in Gran Bretagna, come si è fatto per gli hooligans. Sono stati eliminati nell'arco di un anno o due anni con una legislazione pesantissima. Quando si prendevano delinquenti per strada andavano in galera per due anni. Abbiamo bisogno di queste misure, altrimenti diventa complicato mettere un freno a questi episodi. Ci auguriamo che da questo punto di vista il governo italiano prenda misure legislative adeguate e che anche le autorità sportive intervengano in maniera più pesante. In questi casi c'è bisogno di repressione, questa è la parola giusta, senza avere paura. Famiglie senza reddito e da una settimana anche senza tetto sulla testa hanno occupato abusivamente una palazzina in Salita Arenella a Napoli. 50 persone con bambini e anche due cani hanno sposato la battaglia di Magnam Ciupesone, il comitato che lotta per il diritto alla casa, prendendo possesso di un edificio restaurato ma disabitato da diversi anni. Con vecchi materassi e sacchi a pelo si sono sistemati alla meno peggio e lanciano un appello al sindaco e alle istituzioni cittadine. Questa è una campagna che si occupa già da due anni dell'emergenza abitativa a Napoli, che è sempre più in aumento. Ne sappiamo bene che lo stato di precarietà che attraversa il nostro paese è arrivato a un livello veramente esasperante, per cui non potendo comportarsi diversamente, quello che non ci viene dato dal diritto noi cerchiamo di prendercelo. Ovviamente la situazione non è come le altre occupazioni che sono già in corso da quando è iniziata appunto questa campagna. Ci sono molti più nuclei familiari, proprio a dimostrazione della forte emergenza che sta comunque crescendo nel nostro paese, soprattutto nel meridione. I nuclei familiari sono intorno alle 9-10 famiglie, più 11 singoli che comunque hanno delle stesse esigenze, seppur con delle alterità, ma comunque non bisogna non riconoscere che la gravità della vita e proprio dello stile di vita non è solamente legato alla famiglia, ma anche ai giovani che non possono permettersi di pagare un fitto, non possono pagarsi l'università. Abbiamo occupato questo posto che è vuoto da 10 anni. Ognuno di noi ha problemi con pagare il pigione, molte persone hanno lo sfratto, molte persone abitano agli scantinati, siamo rovinati. Ci siamo buttati dentro questo posto stamattina. Noi qua non molliamo, finché non ci sistema, noi qua non molliamo. 9 nuclei familiari e circa 12 tra precari, disoccupati e studenti, quindi complessivamente 40-45 persone della auto-organizzata nella campagna Magnam Ciupesone sono entrate col supporto di altri del movimento dentro questa struttura praticamente abbandonata da 10 anni. Si tratta di una struttura che fu donata decenni fa all'ASL con un preciso vincolo, che era quello dell'uso sociale, in particolare di una casa per anziani. Periodicamente vengono effettuati lavori per un mese o due, evidentemente si distribuiscono, immagino, anche soldi ed appalti. C'è una parte quasi ristrutturata e una parte invece è praticamente un rudere. Vedeva la presenza per 24 ore delle agenzie di sicurezza private, che costano, da quando si è capito, una cifra dai 10 ai 12 mila euro al mese. Nonostante spendere una cifra del genere per sorvegliare un palazzo vuoto è indicativo di che tipo di spreco di denaro pubblico si è fatto intorno a questa struttura, che noi abbiamo ribattezzato il palazzo di sprechi. Prima è venuto un funzionario che ci ha spiegato che loro, no, ma proprio adesso dopo 10 anni dobbiamo far entrare gli anziani, 2 ore di assedio praticamente della mezza questura al completo, della polizia, della CECE. Non ci stiamo a farci cacciare da qua, semplicemente perché questo continua ad essere banalmente un palazzo di sprechi, che si faccia un altro dei lavori, perché si continui a dare migliaia e migliaia di euro alle agenzie private di vigilanza per portare via un palazzo vuoto. Abbiamo bisogno di un tiro. Abbiamo lo sfratto e non fuori da qua, andiamo subito a un'altra parte. Meglio che le istituzioni queste cose le sappiano. Loro vogliono questa struttura, però ci hanno trovato un'alternativa, perché se noi da qua non molliamo. Cioè, siamo capaci di farci, ma non nasciamo a cadere finché non ci danno una sistemazione. In realtà ero a casa, però non sono mai venuti a cercarmi, per cui adesso non so, mi consegnerò. Ci danno gli arresti domiciliari, ci accusano di essere un'associazione a delinquere finalizzata all'occupazione, ci accostano al fatto di essere un racket, quindi un qualcosa per natura, come dire, volto a un'estorsione, a un qualcosa di negativo, no? Nella nostra attività, che è un'attività di solidarietà innanzitutto, e questo è importante dirlo, per cui di profitto non esiste proprio, vige il principio per cui aiutarsi a vicenda ci rende più forti rispetto alla solitudine in cui questo mondo ci lascia. Io di questa cosa qua, di questa inchiesta, ancora non so nulla, l'unica cosa che so le ho scoperte tramite i giornali, per questo so di essere, come dire, destinatario di questo provvedimento di custodia cautelare ai arresti domiciliari. Tutte libere, tutti liberi, tutte libere, tutti liberi. Oggi intanto questa mattina quello che hanno fatto è stato sgombrare una serie di case, perquisirne un'altra serie, arrestare un po' di persone. È ovvio che queste persone che sono state sgombrate rioccuperanno, perché la gente in mezzo alla strada non ci vuole stare. Le persone che sono state arrestate prima o poi verranno liberate, ci fanno perdere solo un po' di tempo, ma è ovvio che la lotta non si ferma e che va avanti, perché quello che abbiamo fatto molto semplicemente è scegliere di smettere di essere deboli, scegliere di smettere di farci mettere i piedi in testa, che sia dall'ALER, dallo Stato, da chi per loro, e iniziare a lottare tutti quanti assieme per essere qualcosa di più forte e più unito. Quello che succede è che queste case sono sfitte, non vengono assegnate, mentre invece, perché la scusa che viene utilizzata è il fatto che assegnarle costa troppo, sono case fatiscenti e quant'altro, mentre invece ogni sgombero costa 10.000 euro. Guarda, io ho visto tante occupazioni qua in quartiere, perché tante persone qua occupano, non è che noi abbiamo portato una pratica qua, perché questa pratica qua c'è da sempre, nel momento in cui da sempre ci sono case sfitte e persone senza case, per cui mi è capitato di vederne tante, altre di non vederle direttamente ma di arrivare dopo. Comunque è un quartiere che sicuramente è mobile sotto il punto di vista delle occupazioni, perché è un quartiere che invece è immobile dal punto di vista delle assegnazioni, per cui non saprei neanche quantificare il fenomeno, è veramente una cosa complicata. Giù le mani dal cappellino, giù le mani dal cappellino. Radici di Gramigna, siamo in diretta per la nostra quarta puntata. Come sapete, la nostra trasmissione procede per rubriche. Questa era la rubrica del ricettario di Gramigna Merachi. Questa volta abbiamo scelto come ricetta di darvi 5 consigli utili per non finire al gabbio e difendersi da soli dalla condanna per blocco stradale, senza dare dell'infame a nessuno, tra parentesi. E dunque, non so se l'avete capito dal montaggio appena compiuto, ma a quanto pare l'unico modo per difendersi dalla repressione è lottare ancora. Thank you. collettive che si vanno formando hanno due caratteristiche. La repressione è più tenue, più diffusa, più generale e allo stesso tempo molto più violenta. Per tutti quelli che si sottomettono, si adattano, si lasciano incanalare, ci sarà una diminuzione dell'intervento poliziesco. Tra i servizi di polizia ci saranno sempre più psicologi e persino psicoanalisti. Ci saranno più terapie di gruppo. I problemi dell'individuo e della coppia saranno universalmente discussi. La repressione sarà più comprensiva in termini psicologici. Il lavoro delle prostitute dovrà essere riconosciuto. Alla radio ci saranno consulenti sulla droga. Insomma, ci sarà un clima generale di benevolente comprensione. Ma se individui o gruppi cercassero di sfuggire a tale inclusione, se alcuni cercassero di mettere in discussione il sistema generale di confinamento, allora saranno sterminati, come i Black Panthers negli Stati Uniti, oppure si annienterà la loro personalità, come è accaduto alla RAF in Germania. Gattari. Radio Plaza, inquinata? Una plaza inquinata può essere solo bonificata. Con tanti fiori di lilla. E tanti contanti. Con tanti di tanti. Con tanti di tanti fiori di lilla. Buona puntata. Buon divertimento, Radio Plaza. Di febbraio qualcosa di apparentemente inspiegabile aveva iniziato a scuotere le viscere di Milano. Un'ebollizione, quasi un risveglio. La città sembrava rinascere, ma di una vita curiosa, troppo forte, troppo violenta e soprattutto troppo marginale. Nella metropoli sembrava insediarsi una nuova città. Ai quattro angoli di Milano, ovunque, lo scenario era lo stesso. Bande di adolescenti si lanciavano all'assalto della città. Dapprima occupavano case vuote, locali sfitti che chiamarono circoli del proletariato giovanile. Poi si allargavano lentamente e conquistavano tutto il quartiere. Si andava dall'animazione teatrale al mercatino pirata senza dimenticare gli espropri. All'apice dell'ondata si contavano più di 30 circoli. Ognuno aveva una sede e molti pubblicavano giornali. La gioventù milanese si appassionò alla politica e i gruppi di estrema sinistra approfittarono, come gli altri, di questo ritorno di interesse, Più che di politica si trattava di cultura, di modi di vita, di un rifiuto globale e della ricerca di un'altra maniera di vivere. Quasi tutti i giovani milanesi non ignoravano niente della rivolta studentesca, ma diversamente dai fratelli maggiori, gli piaceva Marx e il rock and roll e si chiamavano freak. Forti del numero e della disperazione, le bande più o meno politicizzate iniziarono a vivere secondo i loro bisogni. I cinema erano troppo cari, a colpi di spranga imposero biglietti a prezzo ridotto il sabato. Non avevano più soldi, lanciarono il tragicamente semplice movimento degli espropri al limite del saccheggio. Bastava essere una decina per dedicarsi a questo sport che consisteva nell'entrare in massa in un negozio, servirsi e uscire senza pagare. I ladri venivano chiamati la banda dei salami, perché all'inizio svaligiavano soprattutto salumai. Rapidamente si passò ai negozi di dischi. Alla fine del 76 l'esproprio era diventato una moda e rari erano i liceali che non ci provavano almeno una volta al mese. Senza distinzione di classe, i saccheggiatori erano sia figli di operai che figli di grandi borghesi. Su Radio Plaza, quarto episodio. Ci siamo messi in testa di prendere il ritmo e di farne un po', invitare un po' di amici, riusare lo spazio della radio come uno spazio di incontro fisico, sì? I cinque metodi per combattere la repressione, pagarti la cartella da solo ed evitare di dare dell'infame a qualcuno sono sempre gli stessi: respirare, crederci, lottare, auto-organizzare la rabbia per uscire dal ghetto, almeno quello mentale, sì? Mercy! Mercy! This is Radici di Gramigna su Radio Plaza. L'unico modo per difendersi dal maltempo è anche lottare ancora. A volte Opa d'Aterna ci manda certi messaggi un po' indecifrabili, come quando ci fa saltare, volare via tutta la serra e ce la distrugge completamente. Serra, simbolo di nascita del nostro progetto, perché è stato il primo, la prima struttura costruita nell'orto, e niente, ci tocca ricominciare. Chissà che cosa vorrà dirci. Finito il disco Radici di Gramigna. E niente, quindi tre rubriche: Meraki, Raccorti, racconto dal mondo degli orti, orto di Gramigna che aspetta di ricevere i semi del grano antico. What we need today, right down here with her. 3 minuti in diretta, Radici di Gramigna, Sound System Style, lo stile della radio, sì, come siamo cresciuti noi, pensando che la musica fosse diffusione di emozioni, ma anche di messaggi e consapevolezza. Children on the streets, they need clothes and food too. We got to find a way to give them, Lord, I beg you, this I pray, a little love and understanding. Ce la siamo portata dietro la radio, grazie amici di Radio Plaza, Collettivo Utopia. Ce la siamo portata nella nostra vita, la nostra nuova vita, dove proviamo e riproviamo a rigermogliare anno dopo anno, sì? E quindi è proprio approfittando del microfono che volevamo invitare a seguirci, nel senso proprio di contattarci. Perché da gennaio proveremo a organizzare delle giornate di supporto agricolo. Brigate agricole di solidarietà estemporanea, sì? La base. Yes, yes. Eh sì, in questo quarto episodio abbiamo deciso di fare questa mossa strategica per il Soundboy Mercato e quindi di richiamare, diciamo, dall'esonero di 5 anni fa alla panchina di Midland Station uno dei due celebri allenatori, dottor Irie. Abbiamo deciso di portarlo nella radio semplicemente perché, siccome oggi suoni solamente se c'è il sound e lui non c'è il sound perché dice che gliel'abbiamo rubato noi, allora ammetto a ballo pieno così. No, ho chiesto, è vero ragazzi, io sono un ladro, comunque un ladro galantuomo, io chiedo. Però indubbiamente, per chi non lo sapesse, andatevi a vedere un po' chi non lo sapesse. quando abbiamo deciso di disertare la metropoli, pensavamo che comunque l'avremmo continuato a frequentare di notte. Cioè che non avremmo mai abbandonato tutto quello spazio che per noi era vitale e che faticavamo ad incontrare fuori dalla città, di scambio, di crescita culturale, di fermento artistico. Parliamo dell'underground, parlo del mondo artistico che nella città di Napoli, almeno sottoterra, era molto florido, molto vivo, forse lo è ancora, non so, però la verità è che quando poi abbiamo disertato la città non ci rendevamo bene conto delle trasformazioni che erano in atto, sebbene un po' le annunciavamo, ne parlavamo, ma quello che è successo negli ultimi anni nella città di Napoli non lo potevamo immaginare. E quindi, pensando all'ospite di stasera, questo ospite Mario, amico, fratello, attore del mondo artistico underground sin dai suoi 20 anni praticamente, in diverse forme, essendo anche lui tra l'altro originario della periferia, quindi come noi nomade e ospite nella città di Napoli per alcuni anni, e ad oggi nomade, possiamo dire ancora nomade, no? Dunque, la domanda che ci ha ispirato Mario, cioè quando abbiamo pensato di farlo venire, abbiamo pensato che non potevamo parlare solo dell'esperienza di Militance Station, cioè l'esperienza di questa trasmissione radiofonica nata a Radiolina, Officina 99, spostatasi inizialmente in uno spazio universitario occupato, quindi a Radio di Massa, successivamente allo SCA, dove Radio di Massa si è trasferita, e diventata infine una posse, nel senso che dalla radio poi i ragazzi hanno iniziato a suonare anche alle serate, chiamati dall'università occupate, nei centri sociali, in piazza. E dunque questa esperienza ad oggi è un po' ferma, però Mario non è fermo affatto, per cui ci interessava chiedergli, o comunque diciamo la domanda che sarà il sottofondo di questa nostra chiacchierata di stasera è proprio una domanda relativa all'underground artistico, cioè che fine fa l'underground artistico in tempi di gentrificazione. Contento va a tenna sorriendo la non morì più. Uno pizzo che sentimento è perché sto dal Vesuvio con amore, io sono bruto per cantare così. Quando l'uno fumare argento intrecciato con verde, con azzurro e con blu, si cambavo felice e contento, vattenna sorrendo, la rumori più. Yes, buonasera a tutti. E questo, per chi non lo sapesse, è quello che è stato poi per anni l'inno, l'inizio, diciamo, di ogni trasmissione di Militant Station, scelto dal nostro buon caro Mutillo, che diciamo poi ha dato inizio a tutta questa storia. Prossimo disco, sempre Easy Vibe, Barrington Levy. Boyfriend, and tell him that you're cold. Tell you let your belly roll. When you come and dance, must make no fuss or fight. You must make the nice vibes right. No need to fuss, no need to fight. If you're dealing war, back will stay far. We're dealing with truths and rights. Come some more into my side. Uno hear me yet, hear me live and direct. Walk with your tape and your cassette. Uno hear me yet, uno hear me yet, hear me live and direct. Walk with your tape and your cassette. Cause the vibes is right. Yes, the vibes is nice. So nice, so nice, so nice, so nice. When we go a dance, we no make no one. We stay all night long. Listen, how long we stay for? People, listen to me now. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, rock. Never stop rock this rhythm alone. Cause the vibe. Fuss now fight. No, no, no, no, no. In the dance to fight must be right. Have to be, have to be, have to be. But 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, rock. Never stop rock this rhythm, my love. you're dealing war back, we'll stay far. If you're dealing with troops and rock, come some more into my side. No, no, no. Gotta make the dance so fast, right? So right, so right. With 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, rock. Check it on time. West, Sinaya. But I and I know Indian. No, I. Then which country I and I belong? Check it out now. Watch out. I got three Sinaya original players. Scene. Try to find out what I and I is all about. In the meantime, Obela G and want some music for I. I really. Sounds of meditation. I'm on searching for I origination. Yo Yo Foundation Tune Original Midan Station dal Vesuvio con amore, ce l'abbiamo fatta dopo anni di ambasciature e diplomazie a ricucire, perché nella vita non è importante saper strappare ma saper ricucire, sì? Nonostante manchi l'altra metà, che speriamo di avere presto qui. Bravo che ci stava con te, come hai detto, sai? ragazzo mondragonese così appassionato comunque di musica hip hop e di, diciamo, tutte le cose relative, diciamo, a quel genere musicale, e mi ritrovo un'estate con degli amici ad andare a questo festival che si teneva in provincia di Frosinone, se non sbaglio, a Castello di Alvito, e si chiamava Castello Reggae. E gli amici miei già erano stati l'anno precedente, mi avevano detto che era una bella situazione, e mi ritrovo un po' ad andare con loro, no, a questo festival. E niente, poi la prima volta come ospite c'era King Shiloh, se non sbaglio, col suo impianto, e forse c'era Paco Ten, se non mi sbaglio, sicuramente. E niente, sento per la prima volta suonare un sound system e ho avverto quella sensazione che non sapevo comunque tradurre, cioè una cosa che comunque mi aveva preso il corpo, un po' la mente, mi aveva fatto stare bene e volevo saperne di più. E questa cosa poi coincideva con forse il primo anno che mi trasferivo comunque a Napoli, dove non conoscevo ancora le realtà che c'erano, perché appunto se non scavavi nell'underground erano situazioni che non conoscevi, almeno tra le feste che mi ricordo, sai, le varie feste così, quelle più commerciali che giravano i flyer, ricordo pure di aver lavorato a dare questi flyer per quelle feste universitarie, però di sound system nessuna traccia. Arrivo a Napoli e ho voglia, diciamo, di riprovare quella sensazione, riascoltare un sound, anche se non capivo alla fine niente di quel genere, di quello che avevo ascoltato. So solo che mi aveva dato delle belle sensazioni. E ricordo di questa festa col sound in cui c'erano a suonare Bababoom Hi-Fi e Brucia Town giù a questo piccolo locale che si trova al centro storico a San Sebastiano, che di solito facevano altri tipi di serate. E ricordo di aver chiamato un amico mio di Mondragone, quel periodo stava a Napoli, e gli dissi: ma perché non andiamo a questa festa giù al Rising, mi suggeriscono, si chiamava, non so adesso come si chiama, e ci ritroviamo in questo posto e ritrovo il sound. Prima era più o meno intorno al 2008-2009, in cui appunto io cerco di approfondire, di capire un po' diciamo che cos'era quella musica, quel genere musicale, di andare a fare pure un po' di ricerca, nonostante poi diciamo non c'erano tutti quei mezzi di adesso, c'era comunque YouTube, c'erano un po' di cose caricate, però era un po' più difficile. E ricordo questa cosa, conosco Fabio in piazza a San Domenico, così non lo conosco così direttamente come persona legata, diciamo, a questo genere musicale. E ricordo che ci ritroviamo così in questo mio periodo in cui cerco, in cui non so ancora la differenza tra i generi, diciamo, i sottogeneri della reggae music, e ci incontriamo a questo concerto di Alborosi, perché immaginavo all'epoca che comunque Alborosi faceva un genere che era un po' reggae music ed era anche un po' per certi versi legato anche a un po' all'hip hop, perché diciamo era quella declinazione un po' più dancehall, diciamo un momento di in cui cercavo di capire, di fare questo passaggio, e anche lì incontro Fabio. E comunque da lì lui mi dice che già ascoltava reggae music, perché non so se ricordo bene, qualcuno a Potenza di più grande già che lui aveva conosciuto gli aveva passato un po' di musica. E quindi ricordo sta cosa, andavo a casa di Fabio dietro sedile di Porto e mi passò un po' di musica e mi faceva ascoltare questa musica, e King Tubby mi fece capire pure un po' la differenza. Ricordo quest'altro incontro a Piazza del Gesù con Danny Capra, un giovanissimo Danny Capra. Ci incontriamo e noi ci eravamo conosciuti al Castello Reggae, così tramite un altro giro di amicizie, ma appunto non avevamo mai parlato di musica. E io dico, sai, sto ascoltando un po' di musica reggae, però sai, ho scaricato questi e lui mi dice, ma lo sai che c'è la musica roots, il dub, conosci? E io no, non conoscevo niente. E quindi ricordo questo incontro, perché poi sono quegli incontri che mi hanno stimolato ad approfondire poi, diciamo, l'aspetto musicale. Say my daddy was a great old man, and so he died with a shovel in his hand. And hustle ability is what I've got. Yeah. I'm gonna down the line until that you come and then I'll be ready. Till that you come and then I'll sound sound alone as soon as I would say. Till your bottle sound, I keep you rocking, you know. Say me man a born as a Cuban hustler. Say me papa born as a Cuban scuffler. But now me born as a hustler. Woo! See it, say me gone on the hustling. But I tell you this a flat foot hustling. Come make me look little scuffling. Say flat foot hustling. I said I went up to Babylon, he set up a plan. And here came a Babylon, I mash up me plan. It was a flat foot hustling. Come make me look little scuffling. Me mother born as a Cuban hustler. Say me papa born as a Cuban scuffler. Say sixpence in my pocket and I really can't stop. I'm going out to spend it at the corner shop. It was a flat foot hustling. Come make me look like a scuffling. Here I come again. Watch a step and I would be listening. Me a key go all in state mark. Say not talk what they would sell. Till you say me care. Me a key go all in state mark. Say not talk what they would sell. Till you say that all them do is just a feel up, squeeze up. Say not talk what they would sell. But I tell you this a flat foot hustling. Say they not a gamp and the scuffling. Me say me take out me map and me set up a trap and me have them under tight wrap. Me say me take out me map and me set up a trap. And me have them on a tight trap. But I tell you not he have them on a tight trap. But I say they not he have them on a tight trap. See this a flat foot hustling. Come make we look little scuffle. A un certo punto, quindi, con la compagnia di Fabio iniziamo a capire un po' dove venivano fatte le dance hall, iniziamo proprio a frequentare un po' quelle dance hall organizzate da quei due, tre sound diciamo che c'erano all'epoca, e iniziamo anche a, cioè, a cercare di capire un po' che cos'era tutta questa storia del sound system e quel tipo di cultura, e quindi ci ritroviamo a dare una mano alle feste, così a montare, a smontare, a caricare i camion, perché era un po' ricordo nello specifico questa festa di Babbo sul Vesuvio, una festa pirata, una sera d'inverno freddissimo, e lì festa finale giorno dopo la festa. Mi ricordo a un certo punto arriva la forestale, così che viene a rompere un po' le scatole, e niente, ricordo di noi giovani che stavamo lì, a chiunque c'era nella dance hall che dava una mano sia appunto nella costruzione stessa dell'evento, no? E penso sia stata una cosa fondamentale, cioè come, diciamo, concezione, un po' come dovrebbe essere il sound system, ma anche appunto nell'organizzare una cosa, no? Say my dad was a great old man. Said he died with a shovel in his hand. Education he never had, but hustling ability is what he got. Sing it, say that all them do is just a feel up, squeeze up. Say not a quality word sell, but I for me set up a trap. For me have them on a tight rap. But I say they let me have them on a tight rap. They not have them on a tight rap. But I tell you this a flat foot hustling. Hey, yeah. When I saw no dawn, I saw no lead the way. I'll come on down with me no matter what they say. Yeah. Come in, say Babylon a scuffler. But not the Jada the hustler. Iniziamo a frequentare tutte le feste che venivano organizzate. Diciamo che non erano tante come adesso, perché appunto c'erano meno sound e niente, quindi nasce una nuova generazione di appassionati, no? Appresso a quei primi sound che sono nati a Napoli, e qualcuno nota sta cosa e una sera d'inverno, stavo con Fabio e stavamo all'Orientale, incontriamo Mutillo che stava andando ad officina a fare radio. Ci incontra e dice: ragazzi, io sto andando a fare radio, sto facendo questa trasmissione Militant Station dal Vesuvio con amore. Lui già veniva da altre esperienze radiofoniche, suonava con Brucia Town e riconosco in lui questo ruolo di un po' di promotore, di, no, come un po' stile giamaicano, e ci mena dentro, cioè ci dice: ma venite con me adesso, cioè all'istante dovevamo, stavamo per andare. E io gli dico: ma Mutillo, ma non, cioè, noi non abbiamo mai fatto radio, cioè, abbiamo pochissimi dischi, dove... no ma voi venite. E così inizia la storia radiofonica per noi. Quindi da, sì, da un'idea di Mutillo che inizia questa trasmissione e niente, iniziamo a frequentare Radiolinea, a portarci quei pochi dischetti che avevamo, perché poi non avevamo tutti questi dischetti, non sapevamo un po' dove comprarli e... Introducing to the world the man called Val Bennett, along with the revolutionaries, Blow Mr. Huntsman Blow. Bye. Child, then let me tell you, it's your mini dance crew, child. I'm with your wild and I'm with your girl crew, child. Yeah, mini dance, play the roots and the culture. Yes, mini dance, play the roots and the culture. Well, crew, child. There is your mini dance station original. Baby, not defend no passion. That is a wall of the culture. What up the crucial line? Tape style. Skunking on the north and the skunking on the south. Skunking on the east but the skunking on the west. But I tell you a million dance and a bully but the west. Time. Gianturco. Ricordo di questi momenti in cui noi carichi di dischi andavamo a piedi dal centro storico fino a... ci stava un ragazzo che aveva le chiavi della radio che abitava forse a via Garibaldi, se non sbaglio. Arrivavamo carichi di dischi a piedi fino a là e a volte, siccome eravamo un po' in ritardo e non ci andava di passare per la metropolitana, per ragioni che non sto qui a raccontarvi, andavamo a piedi fino a officina. E che se ci penso adesso non avrei né forza né energia, però appunto eravamo super presi, cioè eravamo spinti, non ci importava niente, eravamo spinti da quella cosa di andare a fare radio, che era una cosa che ci faceva stare bene. Ovviamente più passavano gli anni più eravamo presi, Mutillo iniziava a avere diciamo più problemi a venire in trasmissione, oppure spesso ci lasciava lì alla fine per farci praticare, lui lo faceva apposta che ci lasciava lì da soli e che quindi cioè, al di là poi di tutti quei problemi iniziali che c'erano, sai, cioè, alla fine li conosciamo, quelle cose legate un po' alla radio dal punto di vista tecnico, ogni volta che accendevamo non andava mai, ma questo poi ci è successo anche allo Ska, Radio di Massa, e succede tuttora, voglio dire, perché i mezzi sono quelli che sono. Però anche quell'aspetto era bello perché cercavamo un po' di risolvere i problemi. Mutillo ci insegnò questo fatto, no? Che quando non parte una cosa o si sente un rumore, tu smonta tutto e rimetti filo per filo, diciamo da capo, e ripercorri tutto il circuito. E appunto con quei consigli preziosi poi, ma anche dal punto di vista musicale, cioè il fatto che di fare radio con Mutillo è una cosa che ci ha fatto conoscere tantissima musica. Vabbè, non mi volevo perdere, comunque ci lasciamo in radio da solo, spesso facevamo queste puntate lunghissime fino all'1 di notte, alle 2 di notte venivano a trovarci, comunque già iniziavano a venire a trovarci degli amici come Sista Clau, Chiara e niente, passavamo lì tutto il tempo a fare radio. Per poi ritornare a piedi, ovviamente. Mm-hmm. you can't blow a bread, but you won't take life. You must a Lucifer. Some really say you must a Lucifer. You want me to suffer, say you can't blow a bread, but you won't take life. You claim you are martial and you claim you not partial. You are deal with commercial. Lord, you are real with commercial. Will watch your man. Say my see me father, say my sister. Come it to what kind of thing like that. Come it to black is a natural fact. Me say you're chatting this and that, but you don't know one way better. Me say come down a fire from some pride. Me say come down a fire from some pride. Me say you claim you are martial and you claim you not martial. You are deal with commercial. Man say you are deal with commercial. Well, watch your man. You can't brew bread, but you won't take life. You can't brew bread, but you won't take life. You must a Lucifer. Some really say you must a Lucifer. Will I hear me? Say I love coffee, me say I love tea. One thing me really, really want to see. Me want to see me black brother them free. Lord, me want to see me black brother them free. Me say you claim you are martial, you claim you not partial, you are deal with commercial. You man or you are deal with commercial. Well watch your man, you can't brew bread but you won't take life. Say chitty bam bam, sat up on a fence. You acting at the trader for a 50 cent. And him a deal with violence, well watch your man. Me say you can't brew bread but you won't take life. Say I love coffee, me say I love tea. Say one thing me really, really want to see. Me want to see me little brother them free. Come me say I love you and I you feel of me. You screw up your face but you're gonna lose your place. Me say you rock it to the drum and the bass. Come make a rock it to the drum and the bass. Say what? You can't brew bread but you won't take life. You can't brew bread, but you won't take life. You must a Lucifer. Lucifer is Satan, and Satan is the devil. And don't let the devil rule you. Oh, me say you can't brew bread, but you won't take life. You must a Lucifer. Will I hear my man? Me say you claim you a marshal, you claim you not partial, you a team. Inizialmente la radio principalmente legata alla selezione musicale, nel senso che non almeno personalmente ancora io venivo comunque da un paese in cui non c'era, diciamo, tutto questo protagonismo politico in un certo senso, e quindi ero un po' estraneo a queste cose. Ma la radio, cioè Radiolina, si teneva dentro officina, aveva una storia lunga. Poi Butillo, che ben ricorda le cose, ci raccontava molto sulle trasmissioni che aveva fatto, come lui era entrato in officina, com'è un po' anche il suo background, e la cosa ci incuriosì comunque, e disse: ma voi non fatevi solo l'assemblea, diciamo, della radio, che si teneva comunque un altro giorno, partecipate anche all'assemblea del posto. Inizialmente, non so, io dissi: no, ma io vado all'assemblea della radio e devo fare l'assemblea del posto. E da lì poi inizio a frequentare l'assemblea di officina e a collegare anche un po' l'aspetto politico che c'era, che era anche legato al sound system. Sensitivo, assi ma scusa si sono sensitivo, che compagno mi fuma mi indica che s'attiva. ma scusa si son sensitivo, si ma scusa si son sensitivo, anche una militanza si fa cima mattina, a noi a non calamma si non si da fare, a si Gesù t'andana lina l'unica benzina, mango tabacco Gesù non sensi min. E la giovata si pesca naturale, si maria si la fuma se nessuno posta male. La giovata si pesca e picca, si rinda l'orta vicinanza la fred. Siamo a Colli Mari, mi colli ganja, e si guidi. Chihuahua, Lord. E si ma scusa si so visionaria, e si ma scusa si so visionaria, che ne vengo microfono rimarmata proletaria, con microfono rimarmata proletaria, ma la ita scanca e banca banto non fa così, così tu giuro si non fa così, c'è ni ma si tu dica tutti insieme mi savi, la cazza me ne fotta che me cerca pulizia, e corro come un ninja non mi panna fare. Si pure si se ferma non si c'hanno organizzato. La Robin Hood e Little John van per la foresta, ma mentalità resta antifascista. Robin Hood e Little John va per la foresta, la mentalità resta antifascista. Rima armata, proletaria, tutte galera si hanno zuppa in aria. Si rima armata, proletaria, si dà una militanza, si simma visionaria. Line of mercy, line of mercy, oh mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy. Prima armata proletaria, costa ritima, si sima visionaria, si hanno monna ci stanno in galera, di sto freestyle la canon dana frontier. Di cabucci, sì che sia vitamin, quando vengo microfono, sì ma quando ho stalina di Roma dom style. E a mi play di crucia la moine, Lord, a me le danza, play the rhythm, mi pantina di dance, come in mashup di ring. A class di G, to quality, listen what I tell you, yes you listen to me. Downtown Napoli o Purazzoli, quando stiamo o fiumo ni mountain. Flash it, run it, come ci piace a noi. Sound System Style, Radici di Gramigna numero 4, ospiti speciali Maiden Station. Una parte, metà, altra metà, poi vediamo. Slowly but surely, roots reggae music for your heart and soul. Thank you. Sì, un'altra cosa che ti volevo dire, che poi quelli che ti ho raccontato fino adesso, alla fine sono, ti ho raccontato di alcuni incontri fondamentalmente con delle persone, incontri che poi sono stati fondamentali, diciamo, per la nascita di Militants, ma così per noi stessi alla fine. E infatti volevo dire anche di Giant Killa, che è un'altra di quelle persone che comunque una delle prime persone che ci ha fatto vedere e ha cercato di farci capire un po' come funzionava il sound, ma materialmente il sound system, e invitandoci a Salerno anche a costruire dei pezzi di sound, anche per condividere un po' quell'esperienza, così come era il progetto di, diciamo, di Giant Killa Sound System. E dove sono avvenuti alla fine questi incontri? In piazza, no? Perché comunque, se mettiamo in relazione anche tra tutti i fattori di cambiamento, anche il cambiamento della città, ricordo che alla fine Piazza San Domenico era viva dal punto di vista, appunto, anche underground, degli incontri tra le varie realtà, no? Una cosa che adesso forse manca, perché non c'è spazio, cioè già all'epoca non c'erano le panchine e si voleva evitare che comunque le persone si aggregassero, come è sempre stato, perché possono potenzialmente diventare, quelle relazioni possono diventare un pericolo poi all'ordine costituito. Ma adesso non c'è spazio tra i tavolini, tra il cartello della friggitoria, tra confusione di questo turismo un po' sfrenato, e quindi anche in questo senso c'entra un po' la gentrificazione, no? Il cambiamento dello spazio, perché poi alla fine il sound system, no? Come pratica è legata allo spazio, almeno come l'abbiamo vissuta noi, quando poi iniziamo un po', appunto, ripercorrendo un po' la storia, iniziamo un po' più a capire, diciamo, a mettere a fuoco questo aspetto tra sound system e politica, che era quello che avevamo visto fino ad ora. Cioè non avevamo visto la festa per andare a ballare, avevamo visto che all'interno, cioè, il microfono era sempre acceso, e da quel microfono, diciamo, veniva diffuso un messaggio legato a magari il posto dove era montato il sound system, il motivo per cui era montato quel sound system, che credo sia una cosa comunque molto importante, di cui bisognerebbe parlare magari dopo questo disco continuiamo questa storia. The work of the Lord is perfect, and the coming of his judgment is soon. Make haste while you may. Tomorrow is another day. Tell the children, follow me. Take a word against him, mother. Why would you even fight against him, brother? In Babylon, Babylon love Jaja children, so you got to love them well, and watch it, only time will tell. Babylon love Jaja children, and watch you got to love them well. Same take a word against him mother, move ya! Don't come to fight against him brother. Why would take a word against his mother? Just to go and fight out him, brother. It's just trial and tribulation and pure persecution. Trial and tribulation and pure persecution. Babylon knows that our children, why me say if you love them well? What you gonna do when the father stretch forth his hands to lead forward to the promised land? Then we'll be going to a land of happiness and joy, a land of peace, total togetherness, and may them we walk in together. Don't miss them, we love one another, the love that our children. And so I say to love them well, then it's so many only time will tell. In every ways and every walk of life, Jesus trial and tribulation and poor persecution. Trial and tribulation and poor persecution. Babylon love that our children, I beg you. So me say if you love them well, cause everything is time will tell. I say the time is now, I know it's now, I sing it now. And but the road may be rocky and steep, when him run to the rock and the rock get black, run into the sea and the sea went dry. So me sun in on fire, so me now the sun get higher, higher, higher, higher, higher, higher. So me now the sun on fire, higher, higher, higher, higher. But I know that I tell you, you want to load them well. It's only time will tell. To make it real, find the cast your feet on the sands of time. Tomorrow is the time you need, not yesterday. Perché poi per agganciarci un po' al discorso della trasformazione dello spazio, di quanto poi siano cambiate le cose, ricordo di, e qualcun altro magari che ci sta ascoltando lo ricorderà, e lo ricordo con estrema gioia comunque, il momento in cui il sound stava lì in strada, no? Tu ti ricordi del sound portato con un carrello, su un carrello a Piazza San Domenico, così una sera, oppure del sound montato davanti allo SCA a bloccare la strada e stare lì a rivendicare comunque attraverso quello strumento, a rivendicare lo spazio e a liberarlo, diciamo, da tutte le sue, diciamo, dinamiche, e a dargli appunto un nuovo senso. E per questo poi questo legame tra sound system e politica è così forte, e per noi quello era il senso di farlo. Trial and tribulation and pure persecution. Come dicevi tu, quindi è un momento, tu hai detto no, questo atto è un... mi dispiace per chi non c'era. Però ovviamente mi dispiace che forse non ci sappiamo più assumere, forse come individui e come piccole comunità, delle responsabilità, no? Perché per assumerti delle responsabilità ti serve il coraggio, devi sapere i limiti, soprattutto devi farlo, devi praticarlo. E quindi esatto, il passaggio da rivendicazione a riappropriazione, no? Che non basta dire che stasera fai una festa per questa causa o per quell'altra, se poi in realtà non c'è una vita, non ci sono delle altre pratiche che lo sostengono. Ma queste casse che stanno qua dietro, no? Che un giorno Fabio torna a casa, beh, già appunto già facevamo radio allo SCA e nello SCA avevamo incontrato, poi ci eravamo messi in connessione con tutte le altre realtà e appunto poi magari potremmo parlare dell'aspetto della trasmissione che comunque è un aspetto importante, perché poi con l'appuntamento fisso ogni mercoledì la regia diventa un po' un luogo di incontro, no? Di tante persone. Ed è lì che nasce il discorso di Militants Posse, che è un'esperienza comunque che è nata grazie a tutte le persone che hanno iniziato a frequentare la trasmissione e che quindi appunto per quello che ha creato è andato oltre il fatto della trasmissione radiofonica, no? E per, cioè, ad alcuni di noi ha cambiato la nostra vita, no? Ci ha fatto vivere dei momenti forti che hanno creato poi i legami che ci sono tuttora. Vabbè, questo è l'aspetto un po' radio e quindi un po' la, come veniva chiamata da alcuni che iniziavano a prendere il microfono in mano, la palestra, perché era il posto dove tu potevi arrivare come, non so, Pupa Rizzola che finiva le prove arrivava là, Sisco che finiva di lavorare al garage veniva in radio, o chiunque si trovava a passare. Cioè, una palestra, in vero senso della parola, dove potersi allenare, no? Ogni mercoledì con queste trasmissioni lunghe 7, 8 ore, 9 ore, perché appunto poi quella regia diventava, qualcuno saliva sopra a mangiare, a cucinare la pasta e patate, ricordiamo Paoletto sa bene tutta questa dinamica, qualcuno appunto andava a fare la spesa e si rimaneva lì. E questo è un po' l'aspetto secondo me più bello al di là di Militants e bla bla bla. Sulla storia del sound, un giorno torna Fabio a casa, io vivevo con Fabio, dice che voleva iniziare a fare delle iniziative per autofinanziare l'autocostruzione di un sound system da portare nei cortei, perché poi nessuno di noi aveva ancora delle casse, diciamo, e quindi un sound system collettivo, no? A tutti gli effetti. E io inizialmente mi incazzo pure di questa cosa, no? Un po' egoisticamente dico: ah, Fabio, ma noi teniamo delle casse buttate là, ma perché non facciamo, perché non ci facciamo il sound? Alla fine suoniamo già da molto tempo. E quindi inizialmente forse non riesco neanche a capire, no, quella cosa. Col senno di poi, ovviamente, ma anche poi nel corso delle varie iniziative, ho capito poi il senso e il valore, diciamo, del progetto del Voice, al di là poi anche delle casse stesse, no? Come proprio come esperienza di esistenza, di vita, ma che si può chiamare vita, cioè qualcosa, capito, che si libera di quel tempo un po' mercificato. Andassi indietro nel tempo, a pensare adesso come vivo il mio tempo appresso a determinate cose che sono molto diverse da quelle dell'epoca, capisco che quello era un tempo liberato in cui io mi sentivo bene, cioè da molti punti di vista. E da lì poi, con una famosa Montarbo diventata celebre, da una piccola Montarbo nascono, dopo quante iniziative, non so, almeno un anno di iniziative, diciamo. E un laboratorio di autocostruzione, nasce il Bovis che poi continuerà la sua storia. A song is called a state of emergency. Yeah. Song is Redeem and flow wine. Consciously again, again, please, G. Special dedication to each and every one. Special dedication to the girl called Alicia. We, sweet reggae music. It's sweet reggae music. It's good for the young. It's good for the old. It's good for your enemy and friend. Reggae music. Reggae music. Can never refuse it. It's good for the whole, it's good for the child, it's good for the mama. Baby, don't cry. Sweet reggae music. We drive a sound boy out of our mind. We drive a sound boy out of our mind. Dancehall crowd, I'm your dancehall crusher. Dancehall ruler, robot the pusher. Sweet, sweet reggae music. Sweet, sweet reggae music. You can never refuse it. Ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling. She sent the phone as if for copy. Ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling. Evelu de Sibura Maurits. Wow! No, volevo dire questa cosa magari prima che chiudiamo. Questo è l'effetto. Okay. Niente. Per chiudere così magari andiamo a mangiare una cosa. E che alla fine tutto quello che abbiamo raccontato fino a mo, no, è un po', sono parte di una storia, no, molto più lunga e molto più densa. Che però rappresenta comunque una parte, perché è difficile, perché trovo difficile parlare di Militant Station, perché comunque Militant Station a un certo punto diventa un'esperienza collettiva e quindi dovrebbe essere un racconto poi condiviso in un certo senso. E quindi volevo ringraziare poi tutte quelle persone che hanno fatto parte di quell'esperienza e che hanno contribuito a far sì che si creasse quell'esperienza, no? Quella vibrazione che resta comunque un pezzetto di storia per noi, ma non solo, penso, per noi, no? Anche per chi ha frequentato, chi ha vissuto. An angel, but in her heart, we'll be right back. acceso il microfono? Sì. No, perché ti volevo dire una cosa. Tu mi hai chiesto qual è stato, no, il tuo primo disco, e ti ho raccontato di quando a quel famoso Castello Reggae c'era la bancarella di Paco Ten con Ainiti, e comprai questo disco come souvenir. In realtà avevo detto non sapevo nulla di quel genere, né avevo un giradischi a casa. Sapevi che era quadrato? Cioè era il mio souvenir questo. E poi è stato il disco che, se ricordi, abbiamo usato in regia per provare il sound, il voice, in quella famosa puntata radio ascoltata dal sound all'interno, diciamo, del posto, in questa, ricordi, no, quel momento bello di salvata nell'archivio e nel cloud in pop up duretti e fuori per che non ce l'hai? No. Però sì, memory, living memory.